Salviamoci! E dove, oh bella? Arresta il piede! Che fio! Jenny! Ecco lei che ingannatrice! Trasse al rupo Orlando! Per lei che folle rondo! Amica, non hai perso ogni speranza! Ma peggio in me! L'ultima tua ruina!